cellulite e celluloide. In studio Gabriele Vasquez. Come va? Tutto a posto. Stavo dicendo Mauro Bazzucchi, oramai ho una... Porco cane. Il mio noto alter ego. Esatto. Allora, com'è andata questa settimana? È andata bene, è stata una buona settimana. Meno male, meno male. Il tempo, mi metto lo smalto e non pot... Che cos'è? Non potete trovare sottofondo più azzeccato per lo smalto. Sto in macchina parcheggiata sotto casa del mio ragazzo, aspettando che torni dal lavoro per partire per 3 giorni di ordinaria follia da un'ora. Ma c'è traffico, c'è molto molto traffico. Ah sì? Eh sì, c'è molto traffico. Allora, film che sono usciti e che tu hai visto. Visto per voi. Certo, Aurelia, ok. Vabbè. Allora, il nome dell'album di John McLaughlin è Floating Point. A proposito, io sono stato a vedere Aldi Meola all'Auditorium 2 settimane fa, Ed è sempre un signor chitarrista. Ma non mi dire. Non ha perso il suo... Anzi, devo fare un grande appunto. Ci sono stati dei problemi perché era il periodo la nube dell'eruzione del vulcano, eccetera, eccetera. Per cui mancavano dei musicisti. Insomma, è stato un concerto fatto all'ultimo momento. Lui è entrato, ha fatto 2 pezzi da solo. Un disastro. Ma disastro. Cioè, steccava le note, andava fuori tempo. Un disastro che mi sono guardato intorno. Eravamo tutti attoniti. L'acustica del... sarà stato. No, proprio senti che non prende la nota, non la preme a fondo. Cioè, proprio. Ma sai quando deve tenere il basso e continuare a fare la melodia con le altre dita, il basso a un certo punto lo mollava. Per cui si mancava. Una cosa proprio che ci siamo sentiti tutti male. Dopo è andato molto meglio. Probabilmente non si era scaldato. Questa è la cosa. Questo è probabile. Sì, perché io ho visto Aldi Meola svariate volte. Pure io l'ho visto parecchie volte, infatti ero atterrito da questa cosa. Però stato poi anche dopo. A cena, figurati. Tu sei un signore. Tu hai a cena con gli attori o a cena con i musicisti? Infatti, tu sei un signore. È giusto che sia così. No, però poi dopo è andato tutto quanto molto bene. È stato un bellissimo concerto. Aveva una formazione con fisarmonica, basso, percussioni e un'altra chitarra. Era fenomenale. Bello. Lui fa una cosa molto intelligente contro la crisi del disco, il problema che hanno tutti degli incassi. Lui fa una serie di dischi che vende solo nei concerti. Questi li vendo solo nei concerti perché li registro ai concerti. È un'operazione tra il marketing e l'intelligente che ha un suo senso. Tra l'altro, si mette là. Se la suona e se la canta. Per carità, poi se si mette là e li autografa tutti uno per uno, che è una cosa che può avere il suo valore aggiunto. Insomma, della serie. Solo i grandi musicisti fanno questo. Ecco. Te lo dice zio Fast. Questo era quello che volevo sentirmi dire. Solo i grandi musicisti lo fanno. E lui è un grande musicista. A parte le stecche, ma insomma io l'ho sentito dal vivo. No, pure io altre volte ed è sublime. Imbarazzante. Tra cui una volta straordinario alla Palma all'aperto, cioè un momento magico è stato veramente. Allora, cinema, cosa hai visto questa settimana? Cosa ho visto questa settimana, quando non ascoltavo Aldi Meola? Allora, questa settimana parliamo per bene di un film che abbiamo accennato l'altra volta, ma che esce poi in realtà questa settimana, che è Vendicami. Vendicami, che c'ha questo titolo che già ti viene voglia di sparartelo in vena subito. È un film di Johnny To. Allora, Johnny To, quando voi vi deciderete prima o poi a recuperare i suoi film, sarà sempre troppo tardi. È un cineasta di Hong Kong, quindi non esattamente cinese, perché poi il cinema cinese e il cinema di Hong Kong sono profondamente diversi a causa del fatto che per tanto tempo non sono stati la stessa nazione. Quindi è un cineasta di Hong Kong che fa tutti i noir polizieschi, è proprio specializzato, fa solo quello. E sono meravigliosi. Sono meravigliosi perché prendono tutto quello che il noir poliziesco è una cosa che nasce in Europa, in America, Europa, tutto quello che è stato fatto in Occidente di questo genere, lo prende e lo shakerà per gli orientali. Lui fa cinema non per noi, lo fa per gli orientali. E quindi lo contamina, lo mischia, fa quello che vuole lui, ottenendo dei risultati altissimi. Una cosa che fa lui è dilatare le cose. C'è una sparatoria di Johnny To, può durare svariati minuti. E va bene così, perché lui è così. John Woo anche faceva così. Esatto, che è un altro di Hong Kong. Poi John Woo aveva anche un altro tipo di gusto. Però comunque, hanno questa cosa in comune. Oppure... ci sono delle scene che noi fatichiamo a capire, ci sono dei momenti in cui i personaggi magari si guardano e fanno delle cose e ridono e tu intuisci che questo dovrebbe essere un momento molto alto, ma a noi magari sfugge perché non è la nostra sensibilità. Però a parte queste cose, Johnny To è sempre riuscito a guadagnarsi una nicchia importante anche in Occidente presso gli amanti. Adesso finalmente un suo film viene distribuito per bene, andrà in molte sale, è un film che è passato a Cannes ed è piaciuto molto, ha preso i premi al Far East Festival di Udine, c'è stata anche una retrospettiva a Roma e tutto quanto, è ovviamente un poliziesco e ha questo la particolarità di avere un protagonista occidentale, cioè Johnny Halliday, che è, diciamo un'altra volta, una specie di Little Tony francese. Poi ovviamente io, dopo che ho detto Little Tony francese, la gente si è inalberata. In realtà non è identico a Little Tony, però diciamo, per come viene percepito oggi da un ragazzo francese della mia età, per dire, un giovanotto francese, è uno che negli anni 60 faceva la musica rock all'americana, però senza essere americano, fingendo di esserlo. Johnny Halliday è uno, un non attore, uno che ha una faccia totalmente inespressiva, cioè con un'espressione sola, tra l'altro una faccia piena di modificata dalle plastiche facciali, è molto finto, però è straordinario, è un corpo filmico fantastico. Johnny Toll l'ha capito, perché l'ha visto, lui ha fatto già altri film, l'ha visto in altri film e ha capito che questo è un uomo che, benché non sappia recitare, è perfetto per i film. L'ha incastrato in maniera stupenda in questo film. Lui è, sostanzialmente, storia, il film inizia con un massacro di una donna e un bambino. Questa donna poi in realtà non muore. Questa donna la vediamo subito dopo in ospedale, praticamente in fin di vita, però ancora capace di pensare e di comunicare. Arriva Johnny Halliday a trovarla, capiamo che Johnny Halliday è il padre, e lei prende la sua mano e con la mano di Johnny Halliday indica le cose su un giornale, perché non può parlare. Allora gli indica le lettere e le parole, e queste lettere e queste parole compongono, perché Johnny Halliday gli dice solo una cosa, dice: chi è stato? Dice solo questo. Lei col suo dito indica, cioè, ma gli lui spiega in origine la cosa. Chi era? Ora arrivo. Gli spiega le cose. E l'ultima cosa che ti fa vedere Johnny Toll, che lei gli fa indicare, è: vendicami. Questa è l'unica cosa. E poi muore. Johnny Halliday è un cuoco, però tu già dall'inizio vedi che è un cuoco che ha una strana confidenza con le armi, cioè comunque non si scandalizza a maneggiare una pistola. Infatti poi nel film si capiranno anche altre cose, però lui si presenta come un cuoco. Chiaramente si trovano, loro sono francesi, ma si trovano a Macao e poi dopo anche a Hong Kong, per cui lui non capisce niente, non parla e non capisce assolutamente niente e niente. E lì dovrà trovare qualcuno a cui appoggiarsi e cercare di trovare questa gente di cui si deve vendicare. Allora, un'altra particolarità dei film di Johnny Toll, dei racconti orientali, è che sono in quattro atti. Cosa significa? Noi in Occidente da sempre ci raccontiamo le storie con tre atti, ma anche la Bibbia ha tre atti, cioè inizio, equilibrio, una situazione, rottura dell'equilibrio, cioè succede qualcosa che scatena poi il film, l'intreccio, il problema da risolvere, la dicotomia da sanare, e poi finale, risoluzione, magari finisce bene, finisce male, però si risolve. Invece gli orientali solitamente fanno cose un pochino più diverse, perché sono un'altra cultura, e spesso i film hanno quattro atti, cioè c'è un equilibrio, la rottura dell'equilibrio, in questo caso la ragazza viene, cioè c'è l'esigenza di vendicarsi, e poi succede un'altra cosa e poi finisce. E quest'altra cosa, solitamente, sono cose che a noi sorprendono sempre. Cioè, si arriva a metà film che si pensa: ah vabbè, il film è finito, basta, ha fatto quello che doveva fare, ha chiuso, qui il film finisce. E in realtà poi succede tutta un'altra cosa che cambia totalmente la situazione e la rende ancora più interessante. Spero di avervi incuriosito, perché Vendicami è un film che vale la pena andare a vedere. Esce questo venerdì e, che dire, non perdetelo, anche perché ci sta un altro film che so che voi volete andare a vedere, perché io lo so in realtà che voi volete andare a vedere Iron Man 2 questa settimana. Ma non esce questa settimana? Sì, esce venerdì. Come venerdì? Oggi è venerdì. Oggi esce. Ah, esce oggi? Sì. Io lo so che voi volete andare a vedere Iron Man 2. Ah, è vero, esce oggi. Però Iron Man 2 rimarrà in tante sale, avete tempo. Vendicami, benché sia ben distribuito, cioè, potrebbe in fretta. Ma in 3D Iron Man 2? No, hanno scelto di non farlo in 3D. È stata una scelta precisa, perché per differenziarsi un po', insomma, per non voler finire. Passiamo ad Iron Man 2. che c'è lo hai visto? L'ho visto, non potevo mancare. Allora, cominciamo col dire che Iron Man 1 probabilmente è uno dei film di intrattenimento più belli degli ultimi 10 anni, più riusciti, vero, un film fenomenale, vero, che fa quello che fanno gli altri. No, solitamente i film di intrattenimento americani vogliono fare tre cose: farti ridere, cioè divertirti, affascinarti con l'azione, un'azione che sia anche carismatica, figa, affascinante, e poi hanno sempre la storia d'amore. Però solitamente succede che non riescono a fare tutte e tre le cose bene. Quell'Iron Man incredibilmente faceva tutto bene, era divertente, era c'era molto, l'azione molto bello. E aveva questa storia d'amore molto strana, molto, che su quale non premeva l'acceleratore, che però si sentiva, c'era un sentimento stranamente forte. Era presente, forte. Era molto presente. Esatto, quel personaggio della segretaria, interpretato da Gwyneth Paltrow, era bellissimo, delineato bene. Io sono entrato in sala Iron Man 2 chiedendomi proprio: ma riusciranno a replicare, perché il team è quasi tutto lo stesso, il team creativo, riusciranno a replicare questa cosa perfetta? Hanno il segreto del film perfetto? No, non ce l'hanno. Questa gli ha detto bene. Sì, allora Iron Man 2 è un bel film, andatevelo a vedere perché è un bel film. Non è perfetto come quell'altro, non è una bomba incredibile come quell'altro, però è un bel film. Secondo me, questo è un punto di vista personale, il problema è che hanno il team creativo è quasi tutto uguale, regista, attori, hanno cambiato gli sceneggiatori, chissà perché, questo è un problema da approfondire, spero che un giorno riusciremo a capire perché, però da che erano quattro è diventato uno che tra l'altro è anche uno che non aveva partecipato al film precedente, uno che è venuto da fuori. Secondo me si sente perché non ha quella scrittura fenomenale, sanno di aver fatto un film di successo che è piaciuto tanto e premono in maniera esagerata su quelle componenti che erano belle, su quel personaggio di Tony Stark ammaliante, qui è troppo fico, è troppo sono meglio io, insomma, e diventa un po' arrogante. Peccato perché poi c'è un cattivo molto bello, c'è Mickey Rourke, fantastico. Una seconda giovinezza per è forte, esatto, è forte di Mickey Rourke, che una volta, no, il Mickey Rourke degli anni 80 veniva utilizzato perché era molto bello, ha un corpo bellissimo, fa 9 settimane e mezzo, tutto quanto. Il Mickey Rourke di adesso, che sta lavorando tanto e bene, viene utilizzato perché ha un corpo sfasciato, cioè sempre comunque per il suo corpo, la faccia devastata dalle plastiche, infatti qui fa un russo e lo fa bene perché ha questa faccia spigolosa da plastiche facciali che sembra russa, fa un russo poi molto povero, che è importante che lui ha avuto una vita povera, perché in realtà nella trama lui è figlio di uno che lavorava per il padre di Tony Stark, che è stato allontanato perché aveva tradito, e quindi lui ha vissuto una vita di privazioni per colpa della famiglia Stark, per cui è importante che abbia questo fisico grosso ma poi anche un po' ciccione, pieno di tatuaggi, rovinato, lo fanno vedere spesso, c'è una bella scena in carcere in cui lui è in mutande e ti rende proprio l'idea di Madonna che vita che ha avuto questo, Madonna. La storia qual è? La storia è di Iron Man, che nel finale dello film scorso diceva "io sono Iron Man", lo diceva a tutti, rivelava la sua identità segreta, che era un momento bellissimo. Infatti questo secondo film inizia con quel momento lì, col momento in cui lui dice "io sono Iron Man", e c'è Mickey Rourke che lo vede in Russia, lo vede in un telegiornale russo e tira fuori i vecchi piani del padre, le planimetrie delle tecnologie alla base di Iron Man, e infatti capiamo che lui farà qualcosa di simile. E poi succede che il governo americano vuole questa armatura, che dice "non è possibile che tu hai quest'arma e noi non la controlliamo". Noi non ce l'abbiamo, però non dobbiamo avere pure noi. E Tony Stark, al processo che gli fanno, fa il figo perché dice "signori, sono 6 mesi che io sono Iron Man e non c'è più una guerra, io ho privatizzato la pace". e chiaramente loro non ci stanno. Quindi ci sono due cattivi. Questo Mickey Rourke, che è comunque un fisico, è uno scienziato, benché sia immenso, grossissimo, è uno scienziato, quindi è il doppio cattivo di Tony Stark, scienziato, è geniale come lui, però è cattivo. E poi c'è Sam Rockwell, che è quello di Moon, che è uno che ha una società multinazionale che fa armi, che è l'altra faccia di Tony Stark, è invece lo specchio di Tony Stark industriale, grande magnate, è manicatissimo con la politica e tutto quanto, che gli vuole rubare questo monopolio. Mi ricorda qualcuno. No, scusa. No, poi c'è anche il mio rido, perché poi c'è anche un pezzo con le donne, capito? Anche un pezzo con le donne. e gli vuole rubare questo monopolio. Ultima cosa, ultimo elemento di crisi è il fatto che l'armatura di Tony Stark, che l'ha salvato dalla morte, perché chi ha visto il primo sa che Tony Stark rischiava di morire, ma l'armatura l'ha salvato, lo sta uccidendo, perché in realtà l'elemento che lui utilizza è dannoso per il suo corpo e non riesce a curare questa cosa, sta sempre peggio. In tutto questo si inseriranno anche altri personaggi, c'è una Scarlett Johansson buona come il pane, direi. E insomma, è un film molto divertente, andatevelo a vedere, è un bel film, non il capolavoro che era il primo. Beh. Allora, telegrafico, con lui ho visto L'uomo del treno, bellissimo. Uno dei film più belli. Brava Susanna, è verissimo, molto bello. Ma con chi? Con Johnny Hallyday, scusa, Johnny Hallyday. Basilica Ghost to Ghost esiste o è frutto della mia immaginazione? Allora, Basilica Ghost to Ghost è un film molto piccolo, ne abbiamo parlato qui, esiste, è un film appunto di Rocco Papaleo che viene dalla Basilicata e racconta, ve lo dico in breve, di un gruppo di musicisti che si fanno il Ghost to Ghost della Basilicata, ma siccome ci metterebbero un'ora in macchina, lo fanno a piedi. Una trama molto banale per un film che non è un bel film, ma è molto divertente. È molto divertente ed è un piccolo caso, perché sta facendo grandi incassi pur in piccole sale. Ovviamente in Basilicata spopola, è ufficiale, dato ufficiale, in Basilicata ha battuto Avatar. Ma no, sì, non ci posso credere. Dato ufficiale. Straordinario, quelle cose italiane. Allora, parliamo di Il denaro non dorme mai. Prego. Se non sbaglio, Il denaro non dorme mai si parla di autunno. Vabbè, tu stai avanti. Certo, io sto avanti. Sarebbe Wall Street 2. Il seguito così, diretto da Oliver Stone, sempre diretto da Oliver Stone e sempre con Gordon Gekko, con Michael Douglas. Manca però Charlie Sheen, il ruolo, non proprio quel personaggio, però quella funzione nella storia, cioè di quello che si affaccia. Vabbè, la sai, ordinario. Non voglio sapere altro. Lo sapevo che lo facevi apposta. Questa settimana sono invincibile, questa settimana so tutto. Beh, bene. Gli amori folli. Draguila l'Italia che trema. Draguila l'Italia che trema. L'hai visto? Allora, non si può vedere perché va a Cannes. È un italiano che va a Cannes. Ma a te non ti piace perché è diretto da Sabina Guzzanti. No, lo sapevo, infatti pensavo che tu l'avessi visto. No, io lo vedrò a Cannes, perché andrò a Cannes. Andrò a Cannes. Certo, tutti i soldi che ti ho dato, scusami. Ci vado ogni anno, questo entusiasmo non è dovuto al fatto che sia la prima volta, perché io in realtà, no? Andrò a Cannes, lo vedrò e saprò dire. A me non piace Sabina Guzzanti. Neanche a me, ma io sono imparziale in quanto critico. Lo so. Vabbè, altri film che hai visto, telegrafico. Altri film che ho visto. 10 minuti. Gli amori folli è un film, se vi appassiona il cinema francese, è un film di Alain René. Alain René ha 88 anni, ha un'età invericonda Alain René, e fa un film che ha un po' di difetti della vecchiaia, cioè è un po' retorico, un po' passatista ed è un po' ma ha il ritmo di un ventenne, è pazzesco, cioè è un film che ha un ritmo pazzesco e che sperimenta con i colori, con le inquadrature. Ci sono dei punti di vista c'è una scena bellissima al semaforo con i colori del semaforo che io non ho mai visto prima, che neanche Alain René ha mai fatto prima, cioè a 88 anni in realtà già l'ha cominciato qualche anno fa a fare queste cose, si è messo a fare cose completamente diverse. È una storia d'amore di uomini anziani, però è un film strano, è un film che sembra finire a un certo punto poi invece ricomincia. È veramente veramente particolare, un pochino sperimentale, molto divertente. Ve lo consiglio però se siete un amante di quel tipo di cinema alla francese. Vabbè, puzzole alla riscossa. Ma puzzole alla riscossa lo vedo lunedì. Mi hanno invitato alla fine. Io sono stato contento. Mi hanno invitato, andrò a vedere Puzzole alla riscossa. Che è un cartoon? Neanche, no. È un film davvero con Brendan Fraser. Brendan Fraser è un abbonato alle vaccate. Lui ci mette, le fa tutte lui, ci mette il marchio di garanzia. Le ultime 56 ore con Gianmarco Dognazzi. Questo che è un attore che mi piace proprio. Sarai contento di cogliermi in fallo. Questo non sono voluto andare all'anteprima. Mi hanno detto che non è niente di che, ma è un mi hanno detto, non fidatevi. Io non so, non so. Gianmarco Dognazzi è bravo, vince facile. Invece questa settimana esce un bel film italiano. Si chiama Cosa voglio di più. È il nuovo film di Silvio Soldini. Ci sono Alvaro Orvacher e Pierfrancesco Fravino. Allora, io grandissimo attore. Qui devo dire leggermente sottotono, forse un po' su disagio, però il film è bello. Io so cosa state pensando, perché chi ha visto il trailer già starà pensando: ma no, dai, ancora un altro film italiano dove lui e lei hanno il lavoro, sono sposati, si incontrano, tradiscono, i tradimenti, film italiani, basta. Avete ragione, anche a me stufano questi film. Tuttavia, se li dovessimo mandare tutti al macero, tutti quelli dell'anno, li dovessimo mandare al macero, ne dovessimo fare solo uno l'anno, sarebbe questo. Esatto, perché questo è veramente riuscito. Questo ci ricorda perché ne facciamo mille, perché poi ce ne sono questi che riescono. Ce n'è uno bello, tra esatto. Mille uno è bello. Esatto. Allora, questa la storia è questa, molto semplice. Lei è impiegata in uno studio, se non sbaglio fanno assicurazioni. Lui cameriere di catering. Questo studio fa una festa e lui va come cameriere, si conoscono. Entrambi hanno una famiglia, entrambi hanno una vita. Però scatta la passione e a un certo punto dovranno decidere che fare. Non è, come si scrive sui giornalisti, stanchi e pigri. Hanno scritto che è un film sì, perché lo fanno, che è un film appunto sui tradimenti. In realtà non è su questo, non è neanche un film romantico. È un film sul fatto che alle volte nella vita ti trovi di fronte a delle scelte e in queste scelte alla possibilità di cambiarla la vita, di rinunciare a tutto quello che hai costruito. C'è un bel momento in cui al personaggio di Pierfrancesco Favino viene detto: guarda che in quella casa, la casa in cui c'è la sua famiglia, c'è tutto quello che sei fino ad oggi, sei pronto a rinunciare a questo? E in tutto questo si inserisce un contesto economico non facile. Soldini, già in Giorni e Nuvole, che era il film precedente, aveva cominciato a indagare, a parlare di questa situazione che stiamo vivendo, dove persone non povere, perché loro non sono poveri, però si trovano in grandissime difficoltà economiche, perché comunque c'è la mancanza di sicurezza. Io magari riesco ad avere una famiglia con due figli che riesco a mandarli anche a nuoto, però poi io vivo una precarietà terrificante. Questo mi tarpa tutto, qualsiasi cosa, anche poter anche i sogni, esatto. Ed è un film narrato con molta delicatezza. Prima si racconta tutta la storia di lei, poi tutta la storia di lui, e poi quel mix che li unisce. Veramente ha dei momenti altissimi. Io l'ho adorato. Vabbè, La Papessa. Lo vedo martedì, non esce questa settimana. Lo vedo martedì. Non esce. No, invece invece esce un film, farò ammenda davanti a tutti, esce Oceano in 3D, che non ho visto perché purtroppo non ho proprio potuto, era una questione di sovrapposizione di orari, però avrei voluto tanto, perché innanzitutto perché sono sicuro che non l'ho visto, ma sono sicuro che è uno splendido 3D, perché quando fanno questi documentari a grande dispendio la tecnologia è sempre straordinaria. Come dice il nome, è un film, andrò a vederlo la prossima settimana. Bra. È un film sugli oceani, sul mondo sottomarino. Ha un problema, me l'hanno detto tutti, e io non faccio fatica a immaginarlo. Pare che abbia questo grave problema, che è doppiato. In originale è doppiato da Marion Cotillard, che fa la voce fuori campo. Marion Cotillard è quella di del film su Dillinger, l'ultimo con Johnny Depp, Nemico pubblico. È un'attrice francese molto molto molto brava. In italiano è doppiata da Aldo Giovanni e Giacomo, e i dialoghi sono stati adattati da Pino Insegno, cioè ci sono delle battute aggiunte solamente nell'edizione italiana. È una cosa, pare abbastanza pesante, pare che ci siano delle immagini straordinarie, ma che queste voci che doppiano siano un po' insistenti. Non lo so, io me lo sarei andato a vedere comunque, e non escludo che andrò a vederlo al cinema, perché mi interessa, che sono delle cose alle volte veramente di una bellezza devastante. Non escludo però che potrei rimanere deluso. Final Destination 3D, uscire al 21. Visto. Allora, la storia di Final Destination, io, siccome sono pieno di pregiudizi, avevo deciso che Final Destination sarebbe rimasto un buco nella mia cultura. Cioè, avevo deciso, io questa cosa non la voglio vedere, perché, vabbè, ero pieno di pregiudizi. Però siccome la mia testata mi ha dato uno scappellotto e mi ha detto tu andrai a vedere e farai la recensione tu, io che sono una persona seria, li ho recuperati tutti. Li ho recuperati e me li sono visti. E ho scoperto che, a parte il primo che non mi è piaciuto, gli altri sono veramente divertenti, molto carini, molto molto divertenti. Per divertente intendo che è un film scritto con i piedi, che però ha una goduria nell'essere di serie B, nel farti vivere questa tensione della continua morte. Sono una serie di film, sono arrivati al quarto ormai, che si fondano sul fatto che ogni volta i protagonisti, per un espediente che non vi spiego, però ogni volta i protagonisti sono condannati a morire, cioè sanno che tra poco moriranno. Dovranno morire. E qualsiasi incidente potrebbe uccidere, la morte potrebbe coglierli in qualsiasi momento. È una morte soprannaturale, è una morte che sposta chiodi e te li conficca in faccia se vuole. Infatti è un film molto splatter, andate a vederlo se vi divertono queste cose. Però se vi divertono, appunto, è molto divertente, perché ci sono dei grandissimi botti, grandissimi incidenti. E questo Final Destination 3D, allora, innanzitutto è un 3D posticcio? No, è un 3D serio. Ed è un 3D di quelli coatti, divertiamoci, con gli oggetti che escono, con le punte che escono fuori dallo schermo. Molto divertente. E poi è un film che non si prende sul serio, cioè che si vuole divertire con lo spettatore. È una caratteristica impagabile, secondo me. Cioè, vi faccio un esempio. È un film che a un certo punto i personaggi vanno nel cinema e vanno a vedere un film in 3D e ironizzano sul fatto che il film è in 3D, e c'è un'esplosione nel film che vedono, e anche la sala poi esplode perché poi succede tutta una cosa per cui si prende in giro su queste cose. C'è un momento in cui il classico bastardo del film, quello che è proprio bastardo, muore con sotto la canzoncina Why Can't We Be Friends sotto e muore in una maniera efferatissima. C'è una scena di un autolavaggio molto divertente in cui una persona rimane incastrata in questo autolavaggio. Insomma, è un film splatterone con oggetti che escono, budella, punte, molte punte, ecco, oggetti appuntiti. Molte punte. Ma io mi sono divertito tantissimo nonostante i miei mille infiniti pregiudizi. E la tua statura. Esatto, poi tra l'altro creativa, la statura intellettuale. Bravo. Che mi proibisce di abbassarmi a questi livelli. Se non sbaglio esce tra un bel po', vero? Sì, il 21 maggio esce Final Destination 3D. La maledizione dello zodiaco, cos'è? No, questo mi dispiace, non lo conosco, ancora non ho avuto modo di... qui parlano di una cosa giusta, ovvero parlano di Sotto il cielo azzurro, che è un documentario che, se volete vederlo, esce questa settimana, dovete sbrigarvi perché rimarrà molto poco. È di Edoardo Winsper, che è un regista italiano abbastanza affermato, che ha fatto questo documentario totalmente in indipendenza, a basso costo, e parla di un vero asilo di Roma, dove accettano solamente bambini di famiglie disagiate. Beh, oggi sono per lo più extracomunitari, però una volta è un asilo che attivo da molti anni, una volta erano anche soprattutto persone italiane di Roma. li accettano solo, è gratuito, non li fanno pagare, e loro raccontano che ci fu anche un momento in cui andava molto, come spesso capita, queste cose poi finiscono per andare di moda, queste cose erano molto equo e solidali, molto, e arrivavano gente anche molto abbiente perché la cosa andava di moda, e loro li hanno rifiutati proprio perché per scelta fanno questa cosa qua. Chiaramente non è facile mantenerlo in piedi, non è facile riuscire a fare queste cose, ed è un documentario che un po' ne racconta la storia, un po' fa vedere come stanno messi adesso, cosa fanno, come funziona, e nonostante io non riesca a rendere una cosa appassionante, in realtà è molto carino, è molto molto bello, come diceva anche l'ascoltatrice che è andata a vederlo. Cosa voglio di più? È questo che ho detto io di Favino e Rohrwacher. Tanto Alba Rohrwacher, che non passa per una bellona, invece ha un gran fisico. Questo film c'è una scena di sesso, gran fisico di Alba Rohrwacher. Vabbè, possiamo chiudere perché sono 19, anzi le 20:58. Vediamo un po' gli incassi. Scontro tra Titani vince. Matrimoni e altri disastri. Agorà, la città verrà distrutta all'alba. Agorà, no? Gran prestazione, io non l'avrei mai detto. Quel film su Alessandria di Pazzia a me non è piaciuto e pensavo che sarebbe andato male, invece pare che stia andando abbastanza bene. Scontro tra Titani piace, lo so. E come vedi qua, torno un po' giù. Al sesto posto Basilicata Coast to Coast, che con pochissimi schermi, dopo 3 settimane, sono quei film che crescono col passare delle settimane. 2 milioni di euro. Sta andando veramente bene. Pazzesco. Tutti pazzesco. I basilicati vanno lì. Esatto, ma anche io non ho visto l'anteprima di questo film, sono andato con i comuni mortali al cinema. Che è una cosa che disprezzo sempre. Ed era pieno, era una sala strapiena, tutti quanti ridevano e si divertivano. Va bene. Cinema e televisione? Mi hai aperto in ritardo. Io ero arrivato in orario, mi hai aperto in ritardo. Comunque, siccome l'altra volta mi avete screziato, perché l'altra volta vi ho consigliato un film in televisione che era stasera e avete detto: oh, perché non lo ricordi la settimana prossima? Lo ricordo. Stasera all'1:55 fanno Volti di John Cassavetes su Rai 3. E poi a seguire fanno Una moglie, che è un altro film di John Cassavetes. Quindi uno dopo l'altro. Prince of Persia, vai. Prince of Persia, allora io non ci puntavo una lira, pare invece che è bello. Non lo so, vediamo. Ancora devo uscire, troppo, sì, se non sbaglio è fine maggio, inizio giugno, una cosa del genere. Ho visto un po' di dietro le quinte. Tra l'altro, poi, io non te l'ho mai detto, quando andai due o tre anni fa, andai a vedere quel sul set del Bond, ai Pinewood stavano costruendo le scenografie di Prince of Persia, io l'ho vista. Ah, le ho viste. Ma 3 anni fa addirittura? Sì, costruivano, martello e chiodo. Anticipano proprio le cose. Eh sì. Green Lantern tra i film più attesi. Nightmare è stato, è stato posticipato. Cos'è questo Solto? Con è un film con Angelina Jolie che Una vita che deve uscire in Italia continua a non uscire. Non so che ne sarà. Vabbè, grazie a tutti. Ci vediamo questa sera allo Shango per l'ultima serata. Poi tutti in vacanza. Ah, questa è l'ultima serata. È la serata di chiusura, caro mio. E poi. Già poi al mare. Ricordatevi sempre che una pietra che rotola raccoglie mai sugo. Volevi aggiungere altro? Ricordatevi che se non potete ascoltare questa trasmissione, se dice io oggi l'ho ascoltata, ma in realtà solitamente il venerdì non posso, se siete tecnologici, tutto quanto. Noi mettiamo i podcast online, che nient'altro sono che le registrazioni della trasmissione. Voi andate su Cellulite e Celluloide, potete anche accedervi dal sito di Faster, lo cercate su Google, fate quello che volete, lo troverete, e vi scaricate le puntate in formato MP3. Se siete anche pratici di podcast, vi abbonate da iTunes, vi sottoscrivete i feed, fate tutto quanto, ve li ascoltate dove vi pare, in metropolitana, in macchina, in motorino, dove volete, e potete anche ascoltare varie volte, che poi alle volte uno al primo ascolto non nota delle cose, che certo, invece, deve approfondire ascoltando noi, certo. Ma spesso poi ci sono dei messaggi subliminali che io metto e non si capiscono subito. E i team, sta per uscire i team, quando esce 11 giugno, ancora mai, ancora ma Robin Hood l'hai visto? Sì, ma non posso parlare. Ah, non puoi parlare? Non posso parlare. Ah, ho capito. Posso parlare, c'è un embargo di ferro, mi hanno fatto firmare, sai, mi hanno fatto firmare. Ma è così, che non divulgherò, e quindi se dico qualcosa sono finito. Va bene, grazie a tutti, ci sentiamo lunedì per quel che mi riguarda. Grazie, Vasquez. Prego.